Anima Jazz, un programma di jazz tradizionale e contemporaneo ideato e condotto per voi in studio da Bruno Pollacci. Buonasera a tutte le mie ascoltatrici e i miei ascoltatori, un grande abbraccio da Bruno Pollacci. Siete all'ascolto di Anima Jazz numero 661. Come ormai vi ho abituato, anche stasera avremo tante belle novità discografiche, dischi veramente interessanti da ascoltare con attenzione e soprattutto divertente il fatto che ci siano linguaggi diversi pure all'interno del jazz, quindi un ascolto come sempre io cerco di creare il più vario possibile in modo che non ci siano chiusure precostituite ma si impari o si continui ad ascoltare sempre ogni linguaggio e poi farsi, chiaramente riservarsi di farsi la propria idea, di dire mi piace, non mi piace, ma non chiudere sistematicamente a certi linguaggi solo perché o sono di troppa tradizione o di troppa avanguardia a seconda dei punti di vista e dei propri gusti. È sempre bene prima ascoltare e poi farsi un'idea. Stasera partiamo con un nome conosciutissimo, uno tra i nomi più conosciuti del jazz italiano, ma che ormai da tempo ha travalicato i limiti nazionali, che è il nome di Fabrizio Bosso. Un disco molto interessante, rivisitazioni veramente gradevoli di composizioni di Duke Ellington, vissuti con il gruppo di base, il quartetto di base di Fabrizio Bosso, che vede Fabrizio Bosso alla tromba e al flicorno, Julian Oliver Mazzariello al pianoforte, Luca Alemanno al contrabbasso e Nicola Angelucci alla batteria, tutti musicisti conosciuti e di ottima fattura. Ma in questo CD c'è anche la preziosa presenza dell'ensemble di Paolo Silvestri che conduce questo gruppo formato da Fernando Brusco e Claudio Corvini alla tromba, Mario Corvini al trombone, Gianni Oddi al sax alto, Michele Polga al sax tenore e sax soprano e Marco Guidolotti al sax baritono. Quindi anche in questo caso si parla di nomi già conosciuti, molto conosciuti in ambito nazionale, in ambito jazz, e sicuramente quindi un mix di ensemble vincenti per questo progetto appunto intitolato Duke e pubblicato dalla Verve. Stasera noi ci potremo ascoltare l'interpretazione di Caravan. Buon ascolto con Fabrizio Bosso Quartet e il Paolo Silvestri Ensemble. Yeah. Questo era il grande Fabrizio Bosso con il suo quartetto formato dallo stesso Fabrizio Bosso alla tromba e flicorno, Giuliano Oliver Mazzariello al pianoforte, Luca Alemanno al contrabbasso, Nicola Angelucci alla batteria e con il prezioso supporto del Paolo Silvestri Ensemble con Fernando Brusco e Claudio Corvini alle trombe, Mario Corvini al trombone, Gianni Oddi al sax alto, Michele Polga al sax tenore e soprano, Marco Guidolotti al sax baritono. Ci siamo ascoltati l'interpretazione di Caravan, scritta chiaramente da Duke Ellington, tratta proprio da questo bel nuovo disco pubblicato dalla Verve, intitolato semplicemente, meravigliosamente Duke. Il CD è un esempio prezioso di quanto si possa ancora suonare standards con un intento creativo, con la capacità interpretativa di grandi professionisti, non solo dotati di straordinarie potenzialità tecniche, ma anche di grande sensibilità e quindi capacità di arrangiamento, capacità di rendere originali e proprie le visioni di musiche che ormai fanno parte dell'immaginario collettivo, della coscienza collettiva del grande jazz. Si possono rinnovare le emozioni appunto con nuove interpretazioni. È il caso sicuramente di questo disco nel quale ogni pezzo di Duke Ellington veramente è vissuto con grande sensibilità e con grande creatività. Lasciamo Fabrizio Bosso, il suo quartetto e l'ensemble di Paolo Silvestri e andiamo ad ascoltare un altro grande nome, un nome internazionale, che è quello di Tim Berne. Tim Berne è un sassofonista ormai riconosciuto a livello internazionale da tempo, che ha realizzato un bel nuovo CD per la ECM intitolato You Have Been Watching Me. E il gruppo di Tim Berne, che viene chiamato Snake Oil, è formato da Tim Berne al sax alto, Oscar Noriega al clarinetto e clarinetto basso, Ryan Ferreira alle chitarre elettrica ed acustica, Matt Mitchell al pianoforte e all'elettronica e Chess Smith alla batteria, vibrafono, percussioni e timpani. Il pezzo che ci ascolteremo stasera è una composizione originale di Tim Berne, così come tutte quelle raccolte in questo CD, e il titolo del pezzo è Angles. Buon ascolto quindi con Tim Berne's Snake Oil. Thank you. quello che ci siamo appena ascoltati era Angles, una composizione originale di Tim Byrne tratta dall'ultimo CD You Have Been Watching Me pubblicato dalla ECM. Un CD veramente tutto particolare, questo del Tim Byrne's Snake Oil, gruppo formato da Tim Byrne al sax alto, Oscar Noriega al clarinetto e clarinetto basso, Ryan Ferreira alla chitarra acustica ed elettrica, Matt Mitchell al piano e all'elettronica, Chess Smith batteria, vibrafono, percussioni e timpani. Dicevo particolare perché mette in evidenza le nuove tendenze, le nuove ricerche di Tim Byrne, un CD imprevedibile nel quale ogni pezzo veramente è un viaggio a sé particolare. Purtroppo ci sono dei pezzi lunghissimi che poco si prestano alle trasmissioni radiofoniche, specialmente quelle come la mia, che gravitano di tantissime richieste da parte di case discografiche, management, promoters da tutto il mondo per essere promossi nel programma, e quindi ho anche esigenze di programmare un certo numero di pezzi durante le mie trasmissioni. Ma ci sono pezzi appunto che superano i 18 minuti l'uno, e quindi diventa veramente, se non impossibile, difficoltoso, creerebbe grossi problemi ai miei programmi. E comunque anche nei pezzi di breve durata si esprime compiutamente la ricerca di Tim Byrne, quindi non è che si tolga qualcosa all'espressività e al momento creativo di Tim Byrne facendo ascoltare i pezzi più corti. Questo Angles era un prezioso esempio delle tensioni che esprime in queste ultime composizioni. Lasciamo Tim Byrne e il suo Snake Oil e ritorniamo in Italia, ci ritorniamo per ascoltare un bravissimo musicista che noi abbiamo già promosso più volte in questi anni nei nostri programmi. Si tratta di Alessandro Giachero. Alessandro Giachero è un pianista molto bravo, pianista e compositore, che si ripresenta al pubblico jazzistico con una pubblicazione discografica intitolata Passio, pubblicata dalla A Beat for Jazz. Alessandro Giachero è al pianoforte preparato, Antonio Santoro ai flauti, perché sono varie tonalità di flauti, e Eugene Gargiola al violino, Maria Vicentini alla viola, Silvia Del Paos al violoncello, Stefano Risso al contrabbasso e Marco Zanoli alla batteria. Questa è la formazione, molto ricca. Si tratta di un progetto discografico che vede Alessandro Giachero protagonista anche di tutte le composizioni, e stasera quindi ci ascolteremo una sua composizione originale intitolata Oblique. Buon ascolto quindi con l'ensemble di Alessandro Giachero dal CD Passio pubblicato dalla A Beat for Jazz. Thank you. questa era la raffinata musica di Alessandro Giachero, che portava il titolo di Oblique, tratta dal suo ultimo CD intitolato Passio, pubblicato dalla Ebit for Jazz. Alessandro Giachero ne era il compositore, un compositore attento, sensibile, con grande capacità non solo di creare ambientazioni molto stimolanti, particolari, ma di dargli anche un'eleganza, una raffinatezza del tutto particolare. Alessandro Giachero era insieme al pianoforte, era insieme ad Antonio Santoro ai flauti, Eugene Gargiola al violino, Maria Vicentini alla viola, Silvia Della Paos al violoncello, Stefano Risso al contrabbasso, Marco Zanoli alla batteria. E beh, mentre ascoltavo mi è venuta in mente una situazione di alcuni anni fa. Per la RAI, RAI Radio 3, realizzai una settimana di trasmissioni tutte dedicate al grande trombettista e caro amico Nunzio Rotondo, che ora è scomparso. Fu un impegno grandissimo, con tante interviste a grandi personaggi, tanta musica difficilmente recuperata, storica, e l'ultima serata non fu mandata in onda perché morì Papa Wojtyła e alla RAI fu detto che in sostituzione dei programmi veniva mandata musica colta, intesa come musica classica. E Nunzio Rotondo, con questa grande delusione nel cuore, perché nessuno aveva mai dedicato a lui una trasmissione parlando di tutta la sua vita artistica, mi telefonò subito e mi disse: Bruno, dice, ma il jazz non è musica colta? E io gli dissi: sicuramente sì, è musica colta. E questo disco me l'ha ricordato quanto il nostro jazz in particolare, ma comunque il buon jazz, è musica colta, è musica elegante, raffinata, di grande levatura, che può essere considerata al pari sicuramente di quella che invece normalmente viene chiamata musica colta, cioè la musica classica. Dopo Alessandro Giachero andiamo avanti, ritornando un po' all'estero. Ci ritorniamo con Allegra Levy. Si tratta di un'artista che si presenta per la prima volta in Anima Jazz, è una cantante molto particolare che ha realizzato un CD intitolato Lanley City e l'ha fatto insieme a Richie Bershey alla batteria, Jörg Röder al basso, Adam Kölker al sax tenore, Steve Cardenas al chitarre, John Bailey alla tromba, Carmen Staff al pianoforte e Mark Feldman al violino. Il pezzo che ho selezionato per voi è una composizione originale della stessa Allegra Levy, intitolato I'm Not Okay. Buon ascolto con Allegra Levy. Thank you. try to save me. I'd rather sit and live the blues God gave me. Don't try and stay, and just be good company. Just let me sit and have my sorrow till tomorrow. I'm not okay. I'm not okay, and I never will be. I'm not okay, and that's okay with me. Don't be a fool and try to save me. I'd rather sit and live the blues God gave me. I'm not okay, and I don't have to be. Don't try and stay, and just be good company. Just let me sit and have my sorrow until tomorrow. I'm not okay. Questa era Allegra Levi, una cantante poco conosciuta da noi, ma che si sta facendo un certo nome all'estero e che promuovo volentieri nel mio programma. È la prima volta che si presenta in Anima Jazz con questo nuovo CD intitolato Lanaly City, dal quale abbiamo ascoltato questa sua composizione intitolata I'm Not Ok, una cantante quindi cantautrice, anche questo un valore aggiunto per una cantante, come avete sentito, che interpreta con grande partecipazione interiore, quindi riesce anche a esprimere delle varietà, dei colori espressivi molto intensi e sicuramente coinvolgenti. Insieme ad Allegra Levi alla voce in questo progetto abbiamo anche Richie Berchey alla batteria, Jörg Reder al basso, Adam Kölker al sax tenore, Steve Cardenas alla chitarra, John Bailey alla tromba, Carmen Staff al pianoforte, Mark Feldman al violino. E adesso, dopo Allegra Levi, sempre per questo mio divertente, almeno per me divertente, passaggio tra il jazz internazionale e il jazz italiano, stavo dicendo, spero che lo sia anche per voi divertente e interessante questa altalena che io faccio sempre quando è possibile tra i pezzi che mi arrivano dall'estero e il buon jazz italiano. E adesso ci appunto ritorneremo in Italia, ci ritorniamo con un grande musicista molto conosciuto, si tratta di Pasquale Bardaro, che al vibrafono ma anche al pianoforte e al piano roz, insieme a Gaetano Partipilo al sax contralto, Francesco Berzatti al sax tenore e clarinetto, Giorgio Vendola al contrabbasso e Vincenzo Bardaro alla batteria, quindi una formazione di All Stars, ha realizzato un CD per la Itinera intitolato Move On, dal quale noi ci ascolteremo Widget Horse, una composizione originale. Buon ascolto quindi con l'ensemble di Pasquale Bardaro. Bene, ci siamo ascoltati la musica di Pasquale Bardaro. Pasquale Bardaro che ha realizzato questo bel CD intitolato Move On, pubblicato dalla Itinera Records. Il pezzo che ci siamo ascoltati è la sua composizione originale intitolata Widget Horse, un pezzo che ha evidenziato la bravura tecnica di questo ottimo artista, di Pasquale Bardaro, che in questo caso si è espresso al vibrafono, ma che in questo progetto discografico suona anche il pianoforte e il piano Rhodes. Pasquale Bardaro ha una grande sensibilità, oltre che una grande esperienza, in questo pezzo esce fuori con forza, ma nello stesso tempo anche con eleganza. Insieme a lui abbiamo sentito anche gli assoli di sax, sicuramente una formazione veramente di grandi nomi, come ho detto prima, Gaetano Partipilo al sax contralto, Francesco Bearzatti al sax tenore e al clarinetto, Giorgio Vendola al contrabbasso, Vincenzo Bardaro alla batteria. Tutti hanno dato il loro contributo con grande professionalità e quindi sicuramente un CD che offre pagine di alta musica dal primo all'ultimo pezzo, non solo grazie alle intuizioni compositive di Pasquale Bardaro e alla sua professionalità, ma anche appunto al contributo che tutti questi straordinari musicisti danno al progetto, che ripeto si intitola Move On e pubblicato da Itinera. Adesso, sempre per continuare con questa altalena tra il jazz italiano e il jazz che ci arriva dall'estero, è il momento di una nuova presenza in Anima Jazz. Si tratta del pianista Miroslav Levitsky, che insieme all'ottimo chitarrista Renz Newland ha realizzato un CD intitolato Elegant Dualism. Si tratta di un CD veramente di grande qualità, dal quale ho tratto questa composizione originale intitolata Orange Evolution. Buon ascolto quindi con il pianista Miroslav Levitsky e il chitarrista Renz Newland. Thank you. Bene, ci siamo ascoltati la musica di Miroslav Levinsky, che insieme al grande chitarrista Rance Newland ci ha presentato questo pezzo veramente straordinario, di grande eleganza, di grande raffinatezza, intitolato Orange Evolution, tratto dal CD Elegant Dualism. Veramente una coppiata vincente quella di Miroslav Levinsky e Rance Newland, due grandi professionisti che mettono insieme le loro sensibilità in questo progetto, che è veramente di grande rilevanza. Una musica che si sposa anche con atmosfere di musica classica e che rendono veramente gradevole l'ascolto. Dopo Miroslav Levinsky e Rance Newland ritorniamo ancora una volta in Italia e ci ritorniamo con Claudio Filippini. Claudio Filippini è un pianista che già più volte ho avuto il piacere di promuovere in Anima Jazz in diverse formazioni. Adesso si presenta come leader del proprio progetto discografico, insieme al contrabbassista Luca Bulgarelli e al batterista Marcello Di Leonardo, per questo CD intitolato Squaring the Circle, pubblicato dalla Camp4Jazz. E noi ci ascolteremo una bella interpretazione di Stolen Moments. Buon ascolto quindi con il Claudio Filippini Trio. Thank you. Claudio Filippini con il suo trio che festeggiano 10 anni di attività insieme. Claudio Filippini al pianoforte e alle tastiere, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Marcello Di Leonardo alla batteria. Ci hanno presentato questa particolare interpretazione di Stolen Moments, che rappresenta un pochettino il concetto generale di questo Square in the Circle, questo CD pubblicato dalla Come for Jazz, cioè quello di poter vivere serenamente gli standards, ma sempre con quel pizzico di creatività, di inventiva che ne rende gradevole e stimolante l'ascolto, senza mai dare niente per scontato, proprio con quel pizzico di imprevedibilità, di sperimentazione. E adesso, dopo la bella interpretazione di Claudio Filippini, è il momento dell'ultimo pezzo della serata. Si tratta di un duo Twin Danger formato da Vanessa Bley, figlia del grande jazzista Paul Bley, e Stuart Matthew Mann, che è un polistrumentista molto interessante. Insieme hanno realizzato questo CD che porta il nome del gruppo, cioè Twin Danger, dal quale noi ci ascolteremo Take It From My Eyes. Buon ascolto. Take it from my eyes. Is it right? Feel this way. Once you'd seen so the story goes, and it's gone. Shame. Questa era la proposta musicale del duo Twin Danger, formato da Vanessa Bley e da Stuart Matthewman. Il CD intitolato Twin Danger, semplicemente come il nome del gruppo, dal quale ci siamo ascoltati Take It From My Eyes, con questa voce delicata, coinvolgente, molto morbida e, come si diceva un tempo, confidenziale. Bene, con questo si conclude la puntata numero 661 di Anima Jazz. L'appuntamento è come sempre a giovedì prossimo. Ciao ciao a tutti da Bruno Pollacci e da Anima Jazz.